Spagna e vedo qui che voi avete già fatto questo. Grazie, insomma. Sembra eccessivo, comunque grazie per i complimenti. Adesso allora, proseguendo con la nostra tabella di marcia, abbiamo senz'altro la relazione di Giuseppe D'Uso, professore a Padova, la critica hegeliana al diritto naturale e al contratto sociale. Poi ci saranno le altre relazioni, io non so ancora come converrà fare, se fare, però credo che sia giusto fare tutte e quattro le relazioni e poi la discussione su tutte e quattro le discussioni alla fine, naturalmente con una pausa in mezzo. Questo va da sé. Tenete presente che abbiamo pochissimo tempo e quindi io lo dico, cioè lo dico ad uso perché capita a lui, insomma, però questo vale poi anche per quelli successivi. Il tempo è veramente poco perché non potremo senza dubbio andare oltre le 6:20, insomma, quindi abbiamo 4 ore, dobbiamo fare 4 relazioni e la discussione relativa. Parola è ad uso. Visto il tempo limitato che ci siamo proposti, questa mia non può essere che una traccia che eventualmente si può approfondire nella discussione. Io mi scuso innanzitutto per il tono, non posso dire filosofico, ma astratto in cui si muove un po' il mio intervento, al momento che penso che se il pensiero hegeliano ha una sua collocazione all'interno di una storia costituzionale in senso ampio, questo là innanzitutto per il rapporto diretto che Hegel ha con i problemi storico-istituzionali, con le tematiche del Landrecht, con le tematiche delle costituzioni, suo rapporto diretto appunto con la costituzione del Württemberg, e l'intreccio che tutto ciò ha all'interno del suo modello, così come appare nella filosofia del diritto. Ecco, mi pare però che in un pensatore logico come Hegel possa essere possibile fare una ricerca sussidiaria, preliminare, che si ponga accanto a questa più importante, per la quale abbiamo autorevoli indicazioni sia in Germania che in Italia, una via teoretica che ha il carattere del percorrimento della critica che Hegel fa al diritto naturale. Perché? Perché mi pare che all'interno di questa via noi vediamo l'imporsi logico di quel nesso che, abbreviando, potremmo indicare come Verfassungsstände. Ecco, questo non solo si impone per il rapporto con la storia e con il dibattito tedesco, ma anche proprio per una necessità logica interna. E la critica di Hegel al diritto naturale, così come era formulato al suo tempo, si incontra con una esigenza che è messa in luce sia tra i giuristi, pensiamo ad esempio al tentativo di Feuerbach per giungere a una strutturazione scientifica, sia a livello filosofico, sia Kant che Fichte mettono in questione lo stesso termine di diritto naturale. Inoltre, come premessa, ecco, io ritengo utile l'attraversamento degli scritti del periodo di Jena, cioè dei primissimi anni dell'Ottocento. Capisco che ci sono forti perplessità per questo percorso, se teniamo presente una serie di studi, quelli di Riedel in particolare. Mi pare però che dalla stessa esposizione possa risultare anche il perché questo attraversamento ha una sua importanza e una sua legittimità. Il filo che mi interessa e che voglio mettere in rilievo all'interno del percorrimento di questi testi è, da una parte, la consapevolezza del circolo logico o della contraddizione che si viene a determinare all'interno del pensiero giusnaturalista in quel punto focale che è il contratto sociale. Dall'altra parte, l'esigenza che emerge in Hegel della comprensione di una complessità di organizzazione del corpo politico, complessità di organizzazione che può avere nella Costituzione e nei ceti un punto di riferimento essenziale. Affrontando lo scritto di Hegel sul diritto naturale, ci sono subito due elementi di meraviglia. Il primo, la forma apparentemente astratta in cui Hegel pone il nodo fondamentale del diritto naturale, cioè il rapporto uno-molti, che è poi il rapporto che secondo Hegel caratterizza lo speculativo, così come mostra nel suo riferimento al Parmenide platonico. Secondo motivo di meraviglia, il filo unitario che Hegel pone tra le diverse, molteplici e opposte posizioni di giusnaturalismo. Hegel fa una distinzione fondamentale, quella tra formulazioni empiriche e formulazioni di tipo formale o formalistico. A proposito delle prime, non si può non tenere presente il contesto in cui Hegel si muove, cioè la crisi in Germania dello statuto scientifico del diritto naturale e i tentativi di mettere in rilievo un procedimento di tipo induttivo che in parte si riferisce a Montesquieu. Mi riferisco in modo particolare alla scuola di Göttingen, agli allievi di Pütter, Reitemeier, Hufeland. Ma bisogna riconoscere con gli interpreti più accreditati del pensiero hegeliano che la posizione empirica è soprattutto rappresentata dalle filosofie del Seicento, del Seicento inglese in particolare, in modo precipuo si può parlare della posizione hobbesiana. Anche questo non è strano se si pensa che il pensiero giusnaturalista degli ultimi anni del Settecento, ricordo sia l'anti-Hobbes di Feuerbach, ma anche il Kant di Sul detto comune, che si riferisce a Hobbes e cerca di criticare Hobbes proprio sul problema del diritto pubblico, non è strano che ci sia questa presenza appunto hobbesiana. La posizione formale è rappresentata dal sistema kantiano e in modo più specifico da quello fichtiano. C'è questa distinzione, già questa crea alcuni problemi, perché Hegel, per esempio, non distingue tra posizioni assolutistiche o posizioni, tra virgolette, liberali, perché non distingue posizioni che pensano a un unico patto o a quelle che invece articolano concezione contrattualistica attraverso più patti. Ma quello che più meraviglia è che la trattazione di ognuna di queste due posizioni slitta nell'altra. E Hegel ne dà la motivazione, perché identici ne sono gli ingredienti, cioè intuizione empirica e concetto, e in ambedue si ha un dualismo, un'opposizione irrisolta. Dicevo, forma astratta quella del rapporto uno-molti per porre il problema contrattualistico, ma forse astratta non lo è tanto se noi teniamo presente gli scritti di Hobbes. Cioè, se noi teniamo presente che il contratto si presenta meglio in Hobbes, il patto si presenta come passaggio dalla molteplicità delle volontà all'unità del corpo politico. Un'unità che non è unificazione, ma che è unità reale. Cioè, è l'unità che si ha nella forma della rappresentazione, nella forma della persona. Questo problema è acuto all'interno di Hobbes e Hobbes ne ha la consapevolezza quando riconosce che l'unità nella rappresentanza viene dal rappresentante e non dal rappresentato. Ancor più, nel Decive afferma l'impossibilità di deporre il sovrano. E perché? Anche se il perché è posto in una forma che può sembrare di tipo psicologico, la realtà logica è che le molte volontà non possono dar luogo a un'unica volontà. Questo problema naturalmente rimbalza sulla stessa idea di contratto allora come passaggio dalle molte volontà all'una volontà. In che modo, cioè, è possibile questo passaggio o in che modo l'unità è già presupposta alla molteplicità? Nella sua analisi, nello scritto sul diritto naturale, Hegel mi pare abbia perfetta consapevolezza di questo problema. Anzi, questa è l'aporia che mette in luce nelle trattazioni precedenti del diritto naturale. Perché se è vero che il principio dell'empirico è la molteplicità, l'individualismo, la guerra di ognuno contro ogni altro, è anche vero che il concetto di natura, così come si presenta in Hobbes, ma come si presenta anche in Kant e in Fichte, non è in realtà il primum, cioè è un prodotto. Non solo è qualcosa di semplicemente immaginato, e non è una realtà, ma è un a priori che è costruito tenendo come guida la posteriori, cioè quel rechtsustand, quella situazione di corpo politico a cui si vuol giungere. Il vantaggio della posizione hobbesiana per Hegel è quella di affermare decisamente che la volontà generale, che la volontà cioè del corpo politico, non può dipendere dalle molte volontà empiriche. D'altra parte, proprio questa posizione lascia irrisolti, sia a livello dello stato di natura che a livello del corpo politico costituito, il principio della molteplicità. Nello stato di natura, appunto, l'individualismo di tutti contro tutti, ma si può pensare che questo individualismo, che non è riscontrabile né in natura né negli esempi storici che Hobbes aveva di fronte, è in realtà una costruzione che Hobbes può fare a partire dalla sua concezione dello Stato. Una concezione in cui gli individui sono realmente, totalmente indipendenti l'uno dall'altro, si rapportano solo mediante l'unità del sovrano, cioè del rappresentante. Nelle posizioni formali, Kant in modo particolare, Fichte, che per Hegel presenta nel modo più conseguente e acuto un'impostazione appunto di tipo formale, c'è il vantaggio nei confronti di Hobbes della consapevolezza dell'opposizione, e questo sappiamo che per Hegel ha un'importanza rilevante, dal momento che proprio nell'opposizione nasce il bisogno della filosofia, e quindi che lo strutturarsi dialettico del discorso non può essere compiuto che in relazione a quel lavoro del concetto che pone appunto le opposizioni. In che modo si manifesta nel pensiero politico fichtiano l'opposizione? Beh, secondo Hegel l'opposizione è strutturale. Perché? Perché la stessa necessità della costituzione dello Stato nasce da un dualismo di libertà di ognuno e libertà di tutti. Queste divergono perché se ci fosse una originaria unità tra le due, non sarebbe possibile il passaggio alla società politica. La mancanza di fiducia e di lealtà, come si esprime Fichte, per mostrare questa distinzione, questa divisione, questa opposizione, è indispensabile perché si parli di diritto nel senso del diritto coattivo. Il dualismo allora è strutturale all'interno dello Stato, lo Stato inteso appunto nel senso del corpo politico, al punto che l'unificazione non può avvenire che nella forma del rapporto esterno, cioè della costrizione. Diritto coattivo, costrizione. Questa è la forma dell'unità all'interno dello Stato. Tuttavia, nella posizione kantiana e fichtiana non è possibile pensare al principio come un principio trascendente. Bisogna garantire l'aspetto appunto trascendentale. Questo è il senso non assolutistico che distinguerebbe la posizione kant-fichtiana da quella hobbesiana. Proprio per questo è necessario un controllo che impedisca al punto alto del governo di tradire la volontà generale, di non adeguarsi a quella informe e sempre sfuggente volontà generale. Ma qui appunto sorge il problema, perché se è vero che la trascendentalità implica una direzione uguale e contraria a quella che va dal governo verso i governati, il problema è il modo in cui si esprime questa volontà. Perché? Perché all'interno dell'organizzazione politica io non ho più molte volontà politiche, o semplicemente i sudditi. Allora, secondo Hegel, Fichte è costretto a ricorrere a un nuovo momento di rappresentazione, che è appunto l'eforato. Allora, è necessaria una nuova espressione politica, cioè una nuova forma di rappresentanza. Ma il problema si aggrava, perché? Perché la rappresentanza all'interno della teoria moderna dello Stato ha la caratteristica di avere per sé tutta la potenza. Allora, cioè il monopolio appunto della forza. Allora questa nuova rappresentanza deve essere nello stesso tempo la forza che è sopra ogni altra, e proprio per questo può controllare il governo, ma nello stesso tempo deve essere un nulla di potenza. Da qui la contraddizione. Contraddizione che è lo stesso che affermare che si ha un monstrum nella duplicazione del concetto di rappresentanza. La difficoltà, il circolo logico, è quella di tutte quelle posizioni che dopo Hobbes, Hobbes escluso cioè, si pongono il problema del controllo di quel agglomerato di potere, di quella unificazione della potenza che si ha nello Stato moderno. Ma alla radice sta il circolo logico che è presente nello stesso concetto di rappresentazione così come viene formulato in Hobbes. Quel circolo logico per cui la sovranità è rappresentazione, quindi si riferisce ad altro, cioè nell'azione dell'attore, del rappresentante, della persona, della maschera, noi dobbiamo ravvisare gli autori, che sono i molti individui, ma questa rappresentanza non ci può mai restituire un'azione diretta di quegli autori. L'unico modo di espressione di volontà politica, cioè di una volontà che sia efficace e legittima, è quella appunto della rappresentazione. Allora, se è vero questo, non ci si deve meravigliare della critica che Hegel muove a Kant e Fichte nel momento in cui sembra che questa critica sia la critica all'individualismo o al soggetto singolo posto a fondamento dello Stato, proprio perché mi pare che è risultato anche da alcuni scampoli delle relazioni di questa mattina, il pensiero di Kant e di Fichte deve essere ben diversamente interpretato. Però per comprendere la critica hegeliana dobbiamo tenere presente che la critica al singolo posto come fondamento dello Stato equivale alla critica d'altro lato allo Stato di polizia, e questo è evidente non solo sullo scritto del diritto naturale ma sulla differenza. Allo Stato di polizia, cioè quello Stato in cui dall'alto si risolvono i problemi dell'individuo. Secondo Hegel, Fichte è costretto a passare logicamente, in modo necessario ma contraddittorio insieme, dall'uno all'altro polo. Ma in modo ancora logicamente più determinato, i due poli della critica si presentano come quello del singolo da una parte e della sovranità nella forma della rappresentazione dall'altra. Sovranità che emerge sempre e solo in questo dualismo in cui cadono tutte le forme di giusnaturalismo, secondo Hegel, prima di lui, nella forma dell'alterità e della costrizione. Allora, la critica hegeliana è quella nei confronti del contrattualismo, è quella che egli fa nei confronti di quelle posizioni che pongono il soggetto come fondamento. Hegel comprende, e in questo caso riflette ancora su Fichte, che il soggetto non può che porsi assolutamente, non può che porsi come assoluta totalità. Questa è una esigenza non solo teoretica, molto ben espressa da Fichte, Ma in questo modo a me sembra che Hegel colga l'elemento critico proprio del modello giusnaturalistico già in Hobbes. Perché? Perché il punto di riferimento critico è, da un punto di vista teorico, la tradizione del pensiero politico che ha Aristotele come punto di riferimento, e cioè la possibilità di rapporti di dipendenza, e da un punto di vista storico, quella società irregolare, che è costituita da organizzazioni di interessi, di diritti e di poteri, appunto, diverse. La critica, la posizione del soggetto individuo come fondamento è il toglimento di ogni dipendenza. La sovranità realizza proprio questa indipendenza, questo totale, cioè isolamento del soggetto in sé. Però Hegel cerca di mostrare come, se è vero che il soggetto individuo, il soggetto singolo non può che porsi assolutamente, è anche vero che il porsi come totalità esclude le altre totalità, cioè il porsi del soggetto come totalità è per la morte delle altre totalità, degli altri individui, ma porsi per la morte degli altri individui significa rischiare la propria vita, cioè il porsi del soggetto come assoluto comporta il suo contrario, cioè il suo essere per la morte. Quando Hegel negli abbozzi a Jena sulla filosofia dello spirito del 1803-1804 esprime questo pensiero dell'essere del soggetto per la morte e quindi del suo dissolversi nel popolo, in quell'intero vivente che è il popolo, non oppone semplicemente la propria posizione a quella dei giusnaturalisti, ma ripercorre il circolo giusnaturalistico, quel circolo logico che porta Hegel a negare decisamente la possibilità di porre una composizione, cioè un contratto originario, all'origine dello Stato. Dico che ripercorre la logica del contratto proprio perché nel contratto, nella forma del contratto o del patto sociale, noi abbiamo il singolo posto a fondamento del corpo politico, ma nel momento stesso in cui si pone a fondamento si toglie, proprio per quel circolo della rappresentazione di cui parlavo prima. Proprio per questo, nella notazione hegeliana abbiamo appunto nessun contratto originario. Il contratto ritorna ad essere una figura possibile nella posizione hegeliana all'interno del diritto privato, cioè all'interno di una sfera in cui i diritti dei singoli sono garantiti da un giudice comune e dal monopolio della forza che riesce a rendere effettivi questi diritti. Attraverso la figura del contratto, secondo Hegel, c'è un indebito estendersi della sfera del diritto, un estendersi della sfera del diritto privato al diritto pubblico, o meglio, dell'estendersi della sfera del diritto alla totalità. Ma questo determina per Hegel quella che è la commedia moderna, la commedia in cui il borghese cerca la sua sicurezza esorcizzando il conflitto, esorcizzando la lotta e il destino. Ma nel momento in cui riemerge l'elemento tragico che è interno al popolo, a questa unità vivente che è il popolo e al rapporto tra i popoli, succede che interi sistemi sono spazzati via e soppiantati con altri e sono distrutti i più sicuri e fermi principi nella scienza e nella realtà. In altri termini, il diritto come forma fa parte della parte della natura inorganica del popolo vivente, ma nell'elemento tragico l'aspetto della decisione, della volontà, della produzione di forma riemerge al di là della forma. Cioè la guerra riemerge al di là del diritto, quella guerra che è l'uguaglianza dinanzi alla quale scompare il momento del diritto. In queste posizioni che noi abbiamo tra lo scritto del diritto naturale e il sistema dell'eticità, emerge non solo criticamente la presenza del pensiero classico, cioè del bel ideale della polis antica, ma emerge contemporaneamente e in senso forte la presenza di Spinoza. La presenza di Spinoza, il quale non semplicemente rafforza quell'idea che la polis viene prima del singolo, mediante appunto la concezione della sostanza, ma abbiamo la presenza di Spinoza proprio nella riflessione del tema della singolarità, del tema della potenza, cioè non classicamente della potenza della verità, ma modernamente della verità della potenza, e il tema della guerra come ciò che è al di là del diritto. Il contratto, come dicevo prima, ha senso oramai solamente all'interno del diritto privato e nelle lezioni lienesi del 1805-6 è posto tra la sfera del lavoro astratto e dello scambio e il capitolo riguardante il diritto alla pena e poi la legge che ha potere. Cioè, in altri termini, lo Stato appare come la potenza del diritto e come il sostegno del contratto. La figura del contratto appare ormai inutilizzabile per intendere la genesi, ma anche la specifica razionalità dello Stato. Il contratto appare anche inadeguato nei confronti di quell'obiettivo principale, che è presente fin dall'origine, di garantire l'identità. Non semplicemente l'identità del corpo politico, ma quell'identità che si deve determinare tra gli individui che sono sudditi, ma con quegli individui che si trovano alla base dello stesso essere sovrano del sovrano, in obs. O quell'identità che si manifesta in forma radicalmente diversa nella posizione di Rousseau, in cui il sovrano è posto, questa identità di sovrano e suddito è posta all'interno della figura del cittadino. La massima affermazione dell'identità che si ha in Rousseau, per Hegel però non riesce a togliere l'opposizione. Rousseau comprende molto bene che per opporsi alla posizione hobbesiana, per togliere cioè l'alterità e la differenza all'interno della sfera politica, bisogna negare decisamente e recisamente la forma della rappresentanza. Se non che nella comprensione, nella critica hegeliana, così come emerge questa volta dopo il periodo jenese, l'opposizione non riesce ad essere superata e l'opposizione appare nella duplicità della critica hegeliana. Cioè, da una parte Rousseau è considerato nella direzione dell'atomismo, cioè di colui che mediante il contratto, lineamenti di filosofia del diritto, pone la volontà dei singoli alla base della volontà generale. Ma un'altra volta, come nei confronti di Kant e di Fichte, la critica è duplice, ha due lati, perché la posizione di Rousseau è anche quella posizione che fa scomparire il singolo. Perché? Il perché sta nel senso informe, proprio perché produttore di ogni forma, che ha la volontà generale. La volontà generale, per determinarsi, deve contrarsi nell'uno dell'individualità. Per essere effettuale, deve determinarsi. Si determina nell'uno nel momento in cui succede questo, gli altri uno sono esclusi. Allora la volontà generale non è più un operare positivo, l'operare positivo della libertà, ma si presenta piuttosto nella furia del dileguare. cioè distribuisce la morte, la più fredda e piatta delle morti. Il singolo scompare. Ancora una volta l'opposizione singolo-sovranità permane in modo letale. La via hegeliana, e qui mi avvio fedelmente al patto iniziale, alla conclusione, la... sono la stessa cosa. La via hegeliana di costruttiva nei rapporti di questa critica portata al giusnaturalismo tende a trovare quindi un'unità diversa tra uno e molti. Tende cioè a vedere l'unità di ognuno con la volontà generale nella forma dell'interiore assoluta maestà e non nella forma della costrizione. Per far questo bisogna riportare l'attenzione su tutto ciò che la rivoluzione francese, come nella dimensione storica, e il diritto formale nella dimensione teorica avevano tolto di mezzo, cioè l'organizzazione delle masse spirituali, che in prima istanza è organizzazione cetuale. Il singolo è un concetto astratto, la molteplicità come molteplicità di singoli è la ripetizione dell'uno identico a se stesso, cioè nel concetto di singolo noi perdiamo la differenza. Proprio per questo al singolo si contrappone l'astratta volontà generale, sono i due lati della stessa concezione. Per pensare la differenza bisogna appunto pensare a una organizzazione complessa della totalità in cui i ceti svolgono un ruolo fondamentale. E allora alla Costituzione, Costituzione nelle lezioni del 1805-6, ma nel senso di Verfassung, se noi vogliamo adoperare la distinzione tra un significato formale e uno più complessivo del concetto di Costituzione, è nella Costituzione quindi che bisogna trovare la soluzione del modello hegeliano. In queste lezioni del 1805-1806 Hegel riafferma con Aristotele che il tutto viene prima della parte, ma ormai il principio dell'individuo, il principio cioè del soggetto come singolo e autocosciente, che è tipico del moderno, principio che gli antichi non conoscevano, ormai deve svilupparsi radicalmente, totalmente, nella duplice forma, quello dell'autocoscienza e quello dell'auto-organizzazione. Questi due elementi di espandersi della soggettività del singolo sono ormai intoglibili all'interno di una teoria dello Stato, il che significa tutt'altro che Hegel abbia una concezione liberale dello Stato. Lo sviluppo della singolarità significa anche sviluppo dei sistemi della singolarità secondo il loro principio e la loro astrazione, cioè quei sistemi che sono il lavoro, la fabbricazione, il diritto, l'amministrazione, l'esercito. Mentre nel primo periodo jenese poteva sembrare che Hegel cercasse di contenere in uno stato particolare questi elementi, questi ormai si sviluppano totalmente. Però ancora una volta la concezione hegeliana non può essere racchiusa nel rapporto singolo e sistema astratto. Perché? Perché la saggezza del governo sta nel far sviluppare totalmente questi sistemi, ma nel piegarli sempre alla dimensione del ceto, che è la dimensione che costituisce appunto Bildung e Gesinnung dei singoli, cioè quegli elementi di organizzazione fuori dei quali il singolo non è reale, non è concreto, non si sviluppa in quanto tale. Allora attraverso questa via logico-astratta si mostra la necessità di porre al centro della riflessione la tematica della Verfassung e quella degli Stände. Questa si mostra al centro di quella direzione teorica che Hegel porterà avanti nel periodo successivo e che si prende una sua veste completa e matura nei lineamenti di filosofia del diritto. Ma quello che più conta è appunto in questa sede recuperare per questa strana via, no, la necessità di andare un'altra volta a confrontare il rapporto diretto di Hegel con quei temi che innervano la realtà e il dibattito tedesco di questi anni che si collocano appunto tra 7 e 800. Grazie. Domande di chiarimento proprio rapidissime, immediato, pur la, nonostante la, una strattezza appunto per noi non filosofi. Ah, aiutami un po', va là. Sie haben sich auch auf die Schriften zur Reichsverfassung mitbezogen, wenn ich recht verstanden habe, zum württembergischen Schenken. Meno, cioè soprattutto, sì, soprattutto li ho tenuti presenti, ma mi baso in modo particolare sullo scritto sul diritto naturale, il sistema dell'eticità e le lezioni jenesi, proprio in relazione alla critica del contrattualismo. No?